La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e da Radio 24 qui a Montecitorio. Andiamo subito a fare il punto sulle elezioni amministrative. Vi ricordiamo i nostri sms 349-238-6666. Esplode la rabbia di Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle non accetta la disfatta alle amministrative. Sul blog scrive di capire i sostenitori del Movimento che ha commesso errori, quindi fa un po' di autocolpa. Chissà quanti, ma è stato l'unico, dice Grillo, a restituire nella storia della Repubblica 42 milioni di euro allo Stato, a tagliare lo stipendio dei parlamentari e a destinare i tre quarti di quello dei consiglieri regionali siciliani alla microimpresa. Poi si rivolge agli elettori di PD e PDL, una critica dura, i partiti che li rassicurano ma in realtà hanno distrutto il paese. Grillo parla di due Italie, sottolineando la prima interessata allo status quo, mentre noi siamo interessati al paese. L'Italia vota i partiti peggiori, questo Beppe Grillo. Ma sentiamo cosa ci ha detto Alfonso Bonafede, vicepresidente della Commissione Giustizia e deputato 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non ha perso questa tornata amministrativa, o meglio, il dato va analizzato per quello che è. Sicuramente non è un dato che va confrontato con il 25% delle politiche, perché le politiche sono tutta un'altra cosa. Il dato elettorale va confrontato rispetto allo stesso dato elettorale per lo stesso tipo di elezioni precedente. Rispetto a quello il Movimento 5 Stelle sta continuando a incrementare una base territoriale che è difficile oggettivamente per un soggetto politico che nasce da tre anni, è difficile da realizzare. Quindi quando a distanza di tre anni dalla sua nascita continua a inserire nuovi consiglieri in comuni nuovi, in qualche modo sta ampliando la sua base sul territorio, sta formando uno zoccolo duro del 10% che è assolutamente di tutto rispetto e che sono convinto continuerà a crescere come concetto. Ma allora che cosa non è andata? Lei oggi si sente vincente o perdente? Io oggi sento onestamente sento che probabilmente, ecco, cerco di analizzare se ci sono state delle responsabilità nella nostra attività in Parlamento su questo sul dato elettorale di ieri. Da questo punto di vista io posso dire che probabilmente qualche errore di comunicazione c'è stato in questi mesi, ma errore semplicemente di comunicazione, cioè non sempre siamo riusciti a far arrivare alla gente quella che era la nostra attività in Parlamento. Le sto dicendo una cosa che non le piacerà, lo sai che sono le stesse parole che diceva Silvio Berlusconi? Se lei va a guardare quello che ha fatto Berlusconi, quell'errore di comunicazione in realtà celava grandi fallimenti della politica. Noi da quando siamo qui non facciamo altro che lavorare, la gente qui dentro non ha mai visto politici lavorare come lavoriamo noi, stiamo presentando numerosi progetti di legge che possono portare una vera rivoluzione in questo paese. E questo era Alfonso Bonafede. Sul nostro sito ci sono anche altre interviste ai deputati 5 Stelle, da Di Battista a Fantinati a Fico, quindi vi potete collocare sul sito www.radio24.it. Ci sono già un po' di messaggi: Grillo ha perso il treno, poteva fare un'associazione con Bersani, allora ci poteva giocare in campo, ora è fuori. Roberto: vince il PD perché ha sempre il suo nocciolo duro di vassalli che si tengono stretti pure i musseri, penati, lusi, contenti loro. Massimo, pare che Elisabetta Fiorito sarà la prossima segretaria del PD. Ringrazio il radioascoltatore, ma faccio la giornalista e va bene così, visto che mi sembra che il Partito Democratico sia molto molto difficile come partito, ma mi sembra che pure gli altri siano sempre un pochino in difficoltà, perché l'altro dato di questa tornata amministrativa è che non solo crolla il Movimento 5 Stelle, ma è in difficoltà anche il PDL, che a Roma il sindaco uscente Gianni Alemanno segua il candidato del PD Ignazio Marino, insomma, e che non abbiano votato probabilmente i quartieri roccaforte del centrodestra è una notizia. È mancato il famoso traino di Silvio Berlusconi. Sentiamo cosa ci dice Fabrizio Cicchitto. Berlusconi ha un ruolo trainante, ovviamente, specialmente nelle elezioni politiche nazionali. Quindi, secondo me, una riflessione sul PDL, una riorganizzazione e rinnovamento del PDL, un partito più democratico e più strutturato, anche con dei provvedimenti che attengano al tesseramento, ai congressi, a una vita democratica, questo certamente noi è un elemento di riflessione che dobbiamo fare. E questo era Fabrizio Cicchitto, c'era proprio il radioascoltatore che ci diceva: perché non date che il PDL è in calo? L'abbiamo dato. Esulta invece il Partito Democratico, che tutti davano un pochino per morto. Ricordiamo che Beppe Grillo diceva: la sfida sarà tra noi e Berlusconi, e sale oltre il 40% a Roma Ignazio Marino, e allora ovviamente c'è soddisfazione. Sentiamo il capogruppo PD alla Camera, Roberto Speranza. Chi pensava che il PD fosse in difficoltà deve necessariamente ricredersi. Abbiamo vinto in tantissimi comuni e nei ballottaggi siamo avanti in larghissima parte dei comuni al voto. Questo era Roberto Speranza, ma altro tema all'ordine del giorno, e qui subito bisogna dire che iniziano a litigare PD e PDL, sono le riforme istituzionali e soprattutto la legge elettorale, perché è in atto uno scontro tra PD e PDL, tra i capigruppo, proprio Roberto Speranza e Renato Brunetta. I toni sarebbero stati pesanti. Brunetta ha rinnovato la richiesta del PDL di modifiche minime al Porcellum, ma invece Speranza ha alzato il muro e vuole invece una revisione vera e propria. Addirittura domani Roberto Giachetti, che è renziano, presenterà una mozione per il ritorno al Mattarellum, e questo sarebbe un pochino quello che vorrebbe il Partito Democratico. Poi mette comunque le mani avanti il ministro delle riforme Gaetano Quagliariello, dice: non è terreno del governo, la soluzione spetta alle forze politiche, l'esecutivo non si farà consumare da questo. Domani quindi la mozione invece alla Camera, anche per l'avvio delle riforme costituzionali. E non è solo il finanziamento ai partiti, non è solo la legge elettorale a preoccupare Scelta Civica. Sentiamo Gregorio Gitti, che propone proprio una riforma totale dei partiti. Si parla troppo di finanziamento pubblico, che è un tema essenziale, certo, e si parla troppo poco di democrazia interna ai partiti. Questo è il nostro punto centrale. Devono essere rispettate le minoranze, ci deve essere uno statuto che consenta un dibattito e la costruzione insieme con gli iscritti e quindi con i militanti di un progetto politico comune. Sono tutte garanzie, oltre a quelle di genere, al coinvolgimento di giovani non ghettizzati in movimenti giovanili, per non contare. Questi sono problemi. Lei fa un'accusa così un po' velata al Movimento 5 Stelle, ha la sensazione che magari la Camera e il Senato siano teleguidati da un capo? No, io non mi occupo del Movimento 5 Stelle, io mi occupo del tema politico più generale, mi occupo del mio partito, mi occupo degli altri partiti che siedono sia pure con nomi diversi ma con la stessa classe dirigente da più di 20, se non in qualche caso 30 anni. Cambiano i nomi ma le persone rimangono le stesse. Il numero dei mandati è un obbligo statutario che la legge dovrebbe imporre in cambio anche di soldi pubblici. Limita i mandati, primarie per la selezione. Allora, i partiti devono tornare a parlare con i cittadini e con gli elettori, altrimenti l'astensionismo che abbiamo anche verificato da ultimo sarà inarrestabile. E questo era Gitti di Scelta Civica, ma intanto si dividono i nostri radioascoltatori, perché un radioascoltatore dice che a causa del suo mal pianga se stesso su Grillo, si sono comportati da irresponsabili, vedi inizio legislatura nei rapporti con il PD. Mentre un altro, Matteo da Modena, ci dice: certo che hanno fatto errori, ma non sono stati aiutati né dai giornali né dalla televisione, io credo nel movimento e non nella stampa pagata dai partiti, il massacro mediatico non ha precedenti. Devo dire che invece Beppe Grillo ha detto che non è colpa dei giornalisti se il Movimento 5 Stelle non ha sfondato praticamente alle elezioni amministrative. Nitto Palma ha presentato il DDL Salva Berlusconi che punisce i PM politicizzati. Che ne pensate? Ci chiede un radioascoltatore. Era proprio questa l'altra notizia che voleva dare, che c'è uno scontro sulla giustizia in commissione al Senato. Stato, provvedimenti disciplinari per le toghe politicizzate, stop ai loro processi con conseguente trasferimento d'ufficio, è quanto prevede un disegno di legge messo a punto da Francesco Nitto Palma del PDL, un testo che ovviamente ha sollevato l'ira del PD ma anche di Sandro Bondi, perché ha detto così non si aiuta Silvio Berlusconi. Quindi rispondiamo al radioascoltatore con le parole di Sandro Bondi: è un provvedimento dannoso anche per il Cavaliere. È tutto per oggi, io vi saluto, un saluto da Montecitorio e da Elisabetta Fiorito.